http://brainbusterradicals.wordpress.com Sigla New World Stair to Paradise dall'album Gorgeous in the Sky, rilasciato in licenza Creative Commons dal sito www.giamendo.com. Puntata numero 1, domenica 17 febbraio 2008. Oggi parliamo di guerra, e lo facciamo iniziando in modo inconsueto, dal simbolo della pace, un simbolo che tra qualche giorno, esattamente il 21 febbraio prossimo, compierà 50 anni esatti. Un mezzo secolo ormai che non può non ricordarci i tempi della guerra fredda, i tempi del confronto NATO-Patto di Varsavia. Dei ricordi che tuttavia non sono molto attuali, visto che il bipolarismo di quegli anni è diventato un monopolarismo, per quanto combattuto e guerreggiato. Non di meno, all'orizzonte di questo monopolarismo, di questo panorama, si affacciano potenze regionali continentali che già stanno insidiando il primato americano. Pensiamo a Cina o India, le quali si affacciano anche sul Medio e Vicino Oriente, un'area caldissima, non solo geograficamente. In questo contesto, in questo scenario, il simbolo ideato da Gerald Holtom, laureato al Royal College of Art e già obiettore di coscienza durante la Seconda Guerra Mondiale, conserva tutto il suo significato, il peso della sua immagine. Un'immagine che è stata descritta come quella di un uomo a braccia abbassate o come l'inverso della runa germanica della vita, la runa Algiz. Quindi rappresenterebbe un segnale di morte. In realtà non è così. Holtom l'aveva progettato pensando al linguaggio marinaresco, al codice dei segnali che i marinai utilizzavano per comunicare da una nave all'altra. E questo simbolo era il concentrato dei segni N e D, che stavano appunto per Nuclear Disarmament, dato che Holtom aveva progettato il simbolo proprio per contrastare e favorire la campagna per contrastare le bombe atomiche e favorire la campagna per il disarmo. Ora, questo simbolo è stato affiancato in tempi recenti da un altro simbolo molto più antico, vale a dire l'arcobaleno. L'arcobaleno che campeggia sulle bandiere della pace, queste bandiere multicolori che abbiamo visto a centinaia e anche a migliaia talvolta durante manifestazioni qualche anno fa contro le guerre, le varie guerre del Golfo, e che tuttora resistono e sopravvivono un po' scolorite, un po' lasciate a se stesse, ma se ne trovano ancora da queste parti. Ecco, questi due simboli, dicevamo, sono presenti, più che mai presenti di questi tempi, anche se appaiono e scompaiono, tendono insomma a attraversare anche loro, come tutti i fenomeni umani, momenti di punta come momenti di relativo abbandono. Segnali, simboli di pace che restano attuali. Perché la guerra è ancora attuale, anzi la guerra è ancora una cosa degli uomini, ed è una cosa che riguarda anche le società opulente, quelle che da anni hanno dimenticato che cosa significhi trovarsi sotto un bombardamento o sentire i colpi dell'artiglieria a 100 metri da casa propria. Perché? Perché la guerra è un fatto degli uomini, è un fatto tipico della nostra cultura ed è anche per questo motivo difficilmente riducibile a slogan ad effetto, anche se la tentazione verrebbe naturale da parte sia di chi la guerra la promuove in qualche forma, come magari un male inevitabile, sia da parte di chi la guerra la aborrisce in ogni sua manifestazione e la condanna senza appello, senza possibilità. Quantomeno, secondo noi, la guerra è un fatto talmente complesso da essere difficilmente riducibile a slogan, difficilmente inquadrabile in precise colorazioni, in precise manifestazioni, ecco. Soprattutto in questo caso, quindi, semplificare significa rinunciare a una quota di onestà intellettuale, perché non possiamo amputare la guerra come la pace di tante circostanze che, se non le spiegano, certamente mettono in luce tutti i vari aspetti di questi due atteggiamenti molto complessi, entrambi tipici della cultura umana. Questa puntata di Brainbuster Radio Box vuole parlare di tale attualità: guerra, arcobaleni e anche spazzatura. E lo faremo, come di regola, saltando da una suggestione all'altra, da semantica a semantica, perché i segni di pace, guerra e degrado sono ancora tra noi, prepotentemente. altre invece si manifestano con una natura più spiccatamente offensiva, aggressiva e militare. Di fatto ci riguardano, di fatto sono realtà che si presentano a noi in maniera appunto intricata con il reale e dolorosamente presente. È rientrata da pochi giorni infatti, per esempio, la salma di Giovanni Pezzulo, maresciallo dell'esercito caduto in servizio in Afghanistan. Su questo doloroso rientro ascoltiamo le parole del punto di vista di Re Kant. Ansiosi di comparire sullo sfondo di tali scenari. Lode agli italiani sul campo della gloria, però per i pace si intende. Carri, armi, mimetiche e regole d'ingaggio perverse. Sparare non per difendersi, bensì disimpegnarsi dal confronto. Questo sì è ciò che trasmette al mondo la ferma presa di posizione pacifista di un paese come questo che ha dichiarato guerra alla guerra. Ma che cos'è la guerra? Di certo è qualcosa che il nostro popolo subisce, come si fa da giovani per lo più nei confronti della scuola. La nostra ricchezza è la nostra cultura, il nostro bel paese. Non serve curarne l'immagine. Sole, mare, monti, tutti ce li invidiano. Tutti vorrebbero venire qua, ma per poco. Per comunque tornare nelle loro sordide coltri di nebbie, piogge e che altro. Per convivere però con un sistema di Stato che permette loro di lavorare, che li rappresenta e perché no li onora quando rientrano in patria avvolti dalla bandiera. Ma qui si è intanto abbandono anche di questo, e non mi dicano che sono tutti tesi per la prossima scadenza elettorale. Il militare italiano, ucciso con 15 proiettili, presumibilmente di mitragliatore in Afghanistan, nell'adempimento di una missione di pace per cui distribuiva vesti, cibo e medicine, altri non era che un servo dello Stato. Quindi, come tale, al suo rientro in Italia è inatteso da chi che sia, se non dalla famiglia o dagli amici. Le autorità, tutti gli altri erano impegnati e le altre cariche erano tutte prese nelle loro campagne politiche o nella celebrazione della Borsa di Milano. Un povero bastardo, noi lo chiamiamo, il nostro militare, che senz'altro percepiva il soldo per la sua opera, e che dentro di sé, oltre a ciò però, doveva anche avere l'orgoglio del suo essere dello scudetto della bandiera, puntato alla manica della mimetica. Pertanto, un anonimo come me, gli tributa di onore. Ore Gant, tocca adesso introdurre stanotte gli altri due argomenti relativi a questa puntata di Brainbuster Radio Box. Abbiamo appena ascoltato un'interpretazione della celebre canzone Torna a Sorrento. E ci chiediamo quindi se la Napoli conosciuta e celebrata da tanti personaggi illustri, pensiamo per esempio il filosofo Croce, potrebbe riconoscersi, ironicamente si intende, nel panorama della nettezza urbana di questa fine legislatura. Stando di recente fra vecchi libri, mi è capitata fra le mani una raccolta di storie e leggende napoletane scritte da Benedetto Croce, lo storico, il filosofo, il critico italiano morto a Napoli nel 52. Grande estimatore di glorie e bellezze italiche, che impressionato dalle vestigia e dai ricordi popolari napoletani, volle immortalarne alcuni soggetti salienti, ritenendo che la loro descrizione e la loro essenza avrebbero potuto far provare un brivido di emozione anche a coloro che per la prima volta si fossero ritrovati in quest'angolo d'Italia così pregno di misticismo e di contraddizioni. Napoli, fra l'alfa e l'omega dello scorrere della vita, qua tutto si rincorre tra strette minuzie prospettive, collinari. Tutto è dominato dalla possente e minacciosa sagoma del Vesuvio, vigile con il suo pennacchio, come ancora oggi svetta sul cappello di gala dei carabinieri. Certo, non ci sono più i boschi lussureggianti, neppure le grandi distese ben coltivate con le mandrie al pascolo. Ci sono però ovunque alte, putrescenti colline di spazzatura, inframmezzate da corsi d'acqua dai colori vivi, che certamente non riflettono più gli effetti del cielo e della vegetazione. Meno male che il vecchio Croce non può più vedere tutto ciò, perché forse penserebbe, ma dov'era? Dov'era quando ho scritto tutte quelle cose su Napoli? Certo, anche egli ha vissuto il travaglio di peripezie politiche nostrane, ha avuto modo di percepire l'anima napoletana, a sentirsi parte integrante e attiva di questa città tratteggiata nelle più fini peculiarità da comici, attori di un'altra scuola, da quella della strada, dei palchi di prosceni, dei teatrini, di periferia. Con quanto sentimento, però, dopo essersi riempiti gli occhi delle miserie, delle ricchezze, perché no, anche le narici, degli odori aleggianti tra le mura dei rioni, con quanto sentimento, oltre a ciò, quando si allontanavano per una volta per sempre, gli occhi si riempirono di lacrime, allorché in terra straniera udivano le parole cantate da Giglio e da Schipa. Soltanto allegro che quasi quasi mi mettisse a chiangere per la felicità. Certo, queste parole anche oggi fanno piangere, ma per lo sconforto dello sfacelo che ogni giorno si rinnova in questa martoriata città. Di chi è la colpa? Degli scugnizi? Dei reggenti? Di chi? Forse un giorno un nuovo Croce, con il naso però tappato, e ne avrà ben d'onde per riuscire a sopravvivere, ci narrerà la verità. Parlando di verità, una verità soprannaturale, quella annunciata dall'arcobaleno, e quell'arcobaleno che ancor prima di essere un fenomeno fisico descritto da Sir Isaac Newton, era il segno della rivelazione divina e del patto pacifico tra uomini ed eternità. Altro mondo e altre prospettive da quelle della politica, regno invece del contingente, del provvisorio e, ahi noi, dell'improvvisato, oltre che dell'imprevisto. L'arcobaleno è quella miriade di colori che sembra congiungere a terra due punti lontanissimi di un territorio, con una curvatura perfetta sullo sfondo del cielo, come un ponte ideale. Effetto visibile della scomposizione cromatica della luce nella sua più intima essenza percepibile dall'occhio umano. Generalmente si manifesta dopo una burrasca, quasi a voler siglare la pace degli elementi gassosi con la dura superficie del suolo. Le credenze popolari, comuni a quasi tutte le culture più semplici, quindi anche la nostra, fino a circa 50 anni fa ricordavano che proprio due punti estremi di esso potevano essere ricelati tesori sepolti. Trasposizione ancestrale questa delle paure che scatenavano tali venti e della calma che sopraggiungeva per permettere all'uomo di attendere alle necessarie vitali attività. Un bel simbolo quindi l'arcobaleno, messaggero di pace per l'uomo, e sperabilmente è. Peccato però che perduti questi tesori di saggezza popolare, i colori oggi non rappresentino altro che una triste ed eterogenea nomenclatura scomposta in tante tonalità sfumate, le quali rendono il simbolo assolutamente privo di significato, anche se esibito da gente che dice io non sono quello, sono questo, cioè quanto vedete. Coerenti comunque negli atti, poiché fedeli all'ideologia che ha guidato il loro percorso di vita verso una professione, la politica, lautamente ricompensati dal denaro del popolo che guarda tra cielo e terra chiedendosi se davvero il tesoro ci sia, anche se consapevole della nuova delusione che l'aspetta. Buster Radio Box, trasmissione e programma a cura di Furio Detti e Gianfranco Trenga, http://brainbusterradiobox.wordpress.com.